furto del quale la parola di Dio ci ammonisce, la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Ebrei 13, 5. La stragrande maggioranza delle persone, seppur inconsapevolmente, si rende colpevole, è nei confronti di Dio stesso e si realizza nel negare a Dio ciò che gli è dovuto almeno quale riconoscimento delle sue benedizioni. Alcuni suoi aspetti sono la mancanza nel glorificarlo e nel ringraziarlo, ma ve n'è un altro importante da non sottovalutarsi. La decima. La liberalità della decima non è un optional o un accessorio della vita cristiana perché essa deve essere una manifestazione concreta e genuina della fede di un figlio di Dio. Poiché noi non siamo in senso assoluto i proprietari di quello che possediamo, ma solo degli amministratori. Poiché tutto appartiene a Dio che è il padrone dell'universo, a Lui spetta un contributo pratico della nostra riconoscenza. Il Figlio di Dio è chiamato a donare proprio per assomigliare a suo Padre, che è il grande donatore, per restituire a Lui ciò che ha ricevuto, per dare ciò che è gradito a Dio e per manifestare concretamente la sua fede. Egli deve dare, motivato dall'amore per Dio e per la sua opera, con allegrezza e volonterosamente. E è stato fatto notare che Gesù ha parlato del denaro più che di salvezza di cielo o di regno di Dio. Un sesto delle sue affermazioni riportate nei Vangeli riguarda questioni finanziarie. Perché egli ha voluto evidenziare quest'argomento? Perché egli sapeva che il nostro portafoglio è molto vicino al nostro cuore. Spesso, nella maggioranza dei casi, l'ultima cosa che si converte di una persona è il portafoglio. In effetti, il denaro costituisce uno degli elementi più importanti per dimostrare la sincerità della nostra fede. È vero che noi non siamo dei figli di Dio se non consacriamo a Gesù Cristo il nostro corpo. È pure vero che la nostra fede è messa seriamente in discussione qualora noi non siamo capaci di rinunciare a parte del nostro denaro. Colui che non è capace di privarsi delle cose terrene per l'opera di Dio ha una fede astratta e non serve né a lui né ad altri. Una vera fede condiziona le cose terrene, compreso il denaro. Il credente dell'Antico Testamento, pur nella sua fede limitata, donava a Dio secondo i canoni della legge oltre il 20% delle sue entrate. Oggi, donando a Dio la decima parte delle nostre entrate, non arriviamo neppure ad equiparare tale gesto, e nonostante la maggiore luce rivelataci riguardo alla verità, rendiamo a Dio non solo ciò che è già suo, ma in misura comunque inferiore ai nostri predecessori. Gesù ha raffigurato il denaro come un padrone, essendo padrone colui che serviamo. Non ci è nulla di sbagliato nel possedere dei beni, ma ci è qualcosa di errato se sono i beni a possederci. Non ci è nulla di sbagliato nell'essere ricchi finché l'essere ricchi non diventa lo scopo della nostra vita. L'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi: «Ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia». Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore, Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. 2 Corinzi 8, 7 a 9. L'amore dei Corinzi non era veramente sincero, o schietto, come altre versioni rendono, se non era accompagnato dalla rinuncia al denaro. Questa riflessione può farmi comprendere quanto veramente amo Dio e il mio prossimo. E Dio e il mio prossimo devono essere amati, ora concretamente con il denaro, mediante i beni materiali e morali. Solo così adempirò l'ottavo comandamento, cioè non rubare. Nonostante questa evidente verità, alcuni ritengono che la decima non sia più un comandamento da obbedire, perché non siamo sotto alla legge, ma nel periodo della grazia. In parte è vero perché la legge mosaica cultuale e civile non è più valevole per i credenti dopo la resurrezione di Gesù, ma la legge spirituale, cioè quella eterna, è sempre valevole. Per cui se rendere la decima a Dio non è più una regola imposta, è pur sempre attuale dedicare una parte sostanziosa del denaro a Dio. Del resto, nel leggere le lettere dell'Apostolo Paolo, notiamo come spesso egli parli a favore dell'aiutare i poveri e i bisognosi. In uno stralcio della lettera ai Romani egli scrive: «Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali». Rm 15.2527. Notiamo che Paolo mette in evidenza la necessità di aiutare con il denaro i poveri di Gerusalemme non tanto perché la legge di Mosè lo ordinasse, ma sulla base di un obbligo morale. Se si sono ricevute delle benedizioni spirituali, rispondere con i beni materiali è il minimo da potersi fare. Ogni chiesa non solo deve bastare a se stessa per quello che riguarda le finanze, ma deve essere in grado di destinare del denaro almeno per tre principali scopi: per aiutare coloro che predicano l'Evangelo, per i bisognosi della Chiesa e per i poveri. Per quanto riguarda coloro che predicano l'Evangelo, è evidente che ci si riferisce ai dotati di un dono particolare nel portare le anime a Cristo, mediante la parola di Dio, e i quali, al fine di poter esprimere al massimo questo dono, è necessario non siano impegnati in un lavoro secolare né come dipendenti né come dirigenti. In quest'ottica, la persona sarà chiamata missionario, cioè colui che è stato mandato per una missione la quale non necessariamente deve solo predicare la parola di Dio, perché anche opere a sfondo sociale saranno utili per annunziare il regno di Dio. Occorre prendere atto con dolore di veri missionari, ce ne sono pochi, anche se sono vari coloro che sono sostenuti dalle chiese, perché pochi sono disposti a soffrire. In merito, occorre stabilire la differenza tra sofferenza e desiderio di soffrire per amore di Cristo. Non si tratta che il missionario debba soffrire per dimostrare di essere veramente consacrato, ma è l'atteggiamento verso la sofferenza a definire chi è un vero missionario. Per la grazia di Dio si possono avere tutti gli agi possibili ed essere disposti a soffrire, mentre si può soffrire causa l'Evangelo, sentirsi delle vittime, avere nessuna riconoscenza verso Dio, aspettando solo il momento di essere liberati dall'incarico. Vi sono missionari che al primo sintomo di penuria finanziaria lasciano il loro compito, mentre l'Apostolo Paolo, un vero missionario meno, si mise a lavorare quando non aveva il sostegno finanziario. Credere alla provvidenza divina vuol anche dire che ritenere che Dio provveda il modo di mantenersi con un lavoro secolare. Vi sono credenti che per fede hanno visto intervenire finanziariamente Dio in modo miracoloso, ma la loro fede non deve essere una tentazione per la nostra quantità di fede. Dio si onora con la misura della fede che Egli ha assegnata a ciascuno, Rm 12.3, e non con l'altrui. In merito ai bisognosi della Chiesa, ogni comunità, a coloro che non hanno disponibilità economiche, come le vedove o orfani, ma anche in questo caso, è opportuno verificare la loro vera necessità, perché più volte è successo di trovare persone bisognose. Sì, ma solo perché sperperavano senza senno il denaro. Così pure vale per i poveri che sono increduli. Essere generosi non vuol dire essere sprovveduti, anche perché la parola di Dio ci mette in guardia. Nella casa del saggio ci è un tesoro prezioso e olio, ma l'uomo stolto sperpera tutto questo. PR 21.20. Spesso un consiglio saggio indirizzato su come spendere i soldi vale molto di più che provvedere con del denaro. L'argomento della decima mette in evidenza il nostro atteggiamento mentale nei confronti dei tanti beni della vita. Nella nostra società abbiamo classificato i ricchi e i poveri in base a ciò che possiedono. Ma, se questo è anche vero, vi è una povertà e ricchezza che non deve sfuggirci e che esula da ciò che si possiede. Infatti, il vero ricco non è quello che ha molto, ma colui che dà molto. Come il povero, non è quello che non ha, ma quello che non si accontenta di quello che possiede. Così, in questo modo, il povero può essere ricco e il ricco essere povero. lo ha dimostrato l'episodio della vedova al tempo di Gesù. C'erano molti ricchi che davano molto denaro, mentre una vedova mise nella cassetta delle offerte poco denaro, ma era tutto ciò che possedeva, e Gesù commentò che la vedova aveva dato di più dei ricchi. Coloro che erano ricchi erano poveri a causa del loro asservimento al denaro, mentre la vedova era ricca perché non assoggettata al suo valore. La parola di Dio non lo dice, ma per la povera vedova molto probabilmente il valore del gesto di donare a Dio era maggiore di quello del denaro in sé, anche perché chi dona la decima e anche molto di più è consapevole che non vi può essere una valutazione diversa. Però sarebbe un errore pensare la ricchezza e la povertà solo in termini di denaro, perché una delle sfere più importanti del dare non risiede tanto nei beni materiali quanto nella disponibilità delle risorse umane. Che cosa dà, o può, dare una persona ad un'altra? La propria gioia, il proprio interesse e tempo, il proprio umorismo, la propria tristezza. Tutte le espressioni e manifestazioni di ciò che di più vitale è in lei. In questo dono di se stessa, essa arricchisce l'altra persona, sublima il senso dell'altrui esistenza con la propria presenza. Quante persone si sono sentite inutili fino al giorno in cui si sono rese conto di essere amate per quello che sono? Occorre essere consapevoli che la vita ci è stata data non solo per ricevere, ma soprattutto per dare, al fine di far sentire realizzato il prossimo. Vivere è relazionarsi. Chi non si relaziona, non dà, è morto, anche se respira. Com'è possibile che in un matrimonio ci siano due cuori e due vie simili a due binari opposti e contrari? Così è possibile terminare la nostra esistenza e vedere il prossimo solo uno strumento del nostro piacere e della nostra soddisfazione, anziché ritenersi decima per il prossimo. Essere decima per il prossimo significa che io ritengo che egli non sbaglia se pretende da me parte del mio tempo, parte del mio denaro e dei miei affetti. Ma questo è possibile solo se sono consapevole che tutto appartiene a Dio e a Lui dono il più possibile, sia di denaro sia di altro, poi di conseguenza io stesso mi consacrerò il più possibile al prossimo. Non come atto religioso, ma come espressione sincera del mio amore. Aprile 2008. Ellero.